avete iniziato con questo elemento in reverse, quindi dovete, esatto, sì, sì. E poi siete passati da qua, avete scelto il vostro percorso, mi sembra di capire la, quasi che tu sei partito quasi da, hai costruito quasi quel tema, Adriano? Sì, sì. Ti comunque sviluppato, e poi nel fine poi spero, no? Qui invece ha seguito il tappeto, sì. Il tappeto. E qua invece c'è invece il discorso di quasi di interplay col flauto. Mi sembrava di capire che quasi la sua forma interagisce con queste linee di contatto quasi con il discorso del flauto. Ma, io l'ho letta in questa maniera. L'ho letta un po' così. Per quanto riguarda quello che ho fatto, okay. Io torno al discorso che poi avete introdotto, ovviamente così. Sì, sì, sì, sì, sì, okay. Detto. Però no, interessante, no, questo discorso. Sarei curioso di sentire voi. Questa grande divisione fra questo inizio molto noise, infatti eravamo detto su strumenti acustici, gli elettronici dovrebbero chiudere i battiti. Io al posto assolutamente è un'illusione. Poi invece poi si è trasformata in questo elemento più cantabile. C'era molto materico nella parte iniziale, anche molto geometrico, molto formalmente era molto più sulle note, molto nitido, chiaro, con questa parte quasi così piovuta dal cielo, come dire, con la arrivata a schiacciare tutto e poi è tutto insolto, molto così, molto sì, beh, forte, sì, che da un lato schiacciava, dall'altro dava profondità anche, sì, sì. Sì. Questa è la cosa che l'effetto che sopra curiosa, infatti, sì. No, schiacciava nel senso che sì, sì, sì. Che è arrivata come da sé, insomma. Sì, con un gesto molto... Fare una domanda. Ma qua vi siete identificati, almeno lasciando perdere questa parte, vi siete identificati in un colore? Sì. Abbiamo deciso che ognuno prendeva pure. Sì, sì, sì, sì, sì. No, sì. È chiaro, quando io ho sentito lui rullava, ho pensato, ok, sta facendo il blu. Poi sì, loro sì, si sono scontrati. Sì. Io ho preso decisamente il verde. Ok. E su tre azzeccati. Diciamo, stavo un po' su quello che stavo ascoltando te, perché appunto stavo sentendo Giacomo così, ho cercato di stare un po' su queste, di uscire un po' da... ascoltando quello che stava succedendo, quindi mi sono... Okay. Però diciamo l'idea era di elementi separati, sì, sì. Cose separate, perché okay. Erano appunto gesti separati, quindi ho pensato... E quindi anche le tessiture, per questo ho cambiato, mi sembrava che Acuto potesse, come dire, fondersi meglio in questa zona che era abbastanza grave, quindi per questo poi ho sì. Cambiato, ma anche ascoltando... Dal punto di vista anche spettrale, sì, c'erano delle zone ben definite, però ho ascoltato tutto in cuffia e anche la qualità complessiva del suono era ben distribuita, nel senso c'era fatto un bel... Posso dire che cioè, il suono era molto, molto, molto come un'immagine, nel senso che io stavo qua, ho visto quella cosa prima, io potevo immaginare anche quel disegno, vabbè, anche altri disegni, però era molto, come si dice, aderente, sì, sì, è strutturato con un paio di cose che erano proprio ben scelte, ben eseguite, sì, esatto, precise, sì. Sarà che forse è stato anche, pensavo che è l'unica volta in cui abbiamo deciso di partire da un'altra parte, se, così come dato. Cioè tu hai messo la Cili, quindi hai detto agli altri questo è il senso di lettura, sì, c'è un senso. Infatti io pensavo che tu dicessi qualcosa, tu intervenissi, invece non sei intervenuto, però è interessante questo. No, ovviamente. Di partire da un'altra parte. No, il discorso era anche interessante a vedere come poi alla fine magari il discorso più scontato poteva essere quello di dare una lettura da sinistra verso destra, identificarsi in un colore, potrebbe essere il gioco delle altezze. Però mi sembra che siamo andati non ha fatto nessuno un po', ci siamo un po' appoggiati un po' a questa, abbiamo cercato di allontanarci il più possibile, però quello che è interessante è come però alla fine chi si, quello che mi interessa è che comunque chi si occupa di ascoltare gli altri molla la partitura, invece chi si guarda la partitura si estranea dagli altri. Sì, però c'è questa oppure c'è questa zona grigia che non si capisce. Ma in questo pezzo che hanno fatto adesso, io ho sentito, vabbè, stavo guardando, quasi nessuno ha guardato questa immagine. C'era. Beh, perché era comunque talmente netta, esatto, che rimaneva. Ci siamo fatto un'idea. Quindi questo è più un spazio per un ascolto. Sì. Perché avevamo qualche appuntamento, quindi siamo andati in generale, soprattutto per quella cesura. Dalla prima esecuzione alla terza è venuta anche bene. Veniva proprio sfoggiata anche per conferma o per diniego, per negazione su qualcosa che era accaduto prima, quindi è un gioco molto figo. Beh, anche sulla familiarità con i segni. Sì, sì, che comunque non c'è un foglio bianco con delle robe fatte a matita, comunque c'è un discorso anche di continuità tra le tre diverse partite, quindi è quasi naturale che alcune cose già definite vengono più o meno riutilizzate o rimasticate. La cosa con cui volevo continuare, che poteva essere interessante, era quella di Io avevo due idee, non so quale è meglio scegliere, se era quella di fare continuare con sempre la formazione del trio e assegnare un'unica partitura a ogni singolo esecutore, però forse diventa troppo dispersiva, forse è meglio concentrarsi su un unico, magari suonare tutti un'unica partitura. Provare a fare lo stesso discorso, anche perché forse non abbiamo il tempo di rifare la stessa cosa con tre partiture. Ma l'idea del solo, però ovviamente si dilata nei tempi, la strada. Il solo non è, sì, la cosa del solo era, però non abbiamo il tempo materiale. Quanto tempo abbiamo più o meno ancora? Sono le 6, è considerato più o meno un'altra mezz'ora, tre quarti d'ora, sono le 6 meno 5, mezz'ora, tre quarti d'ora. Quindi forse riusciremo a fare le tre partiture tutti insieme, provare, visto che ci siamo, siamo tutti, a provare a interpretarle in maniera più... Le tre partiture? Le stesse. In otto. Insieme. Okay. Esatto. Non si riescono a vedere, non tutti riescono a vedere. Possiamo metterle. Posso metterla dietro. Possiamo metterla dietro di me, tanto io le conosco a memoria. Quindi tornando dalla prima, magari farei lo stesso identico percorso, però. Fatto in otto. Però rovesciato. Fatto in otto. Suddivisa con suddivisione con ritmi diversi, fatto in otto era allora a direzione d'orchestra, per esempio questa è la tua acqua, sì. Posso per esempio rispetto a prima comunque mi sembra di capire che comunque penso che siamo un po' tutti d'accordo sul fatto che poi una scrittura di questo tipo a me mi richiama praticamente una... Ah, stiamo facendo uno per volta? Sì. Ah, io ho capito tre. allo stesso momento. No, pensa che facciamo. Sì, sì, sì. Abbiamo poco tempo, tanto vale. No, perché so, potrebbe essere interessante anche i tre tri che suonano contemporaneamente con le tre partiture diverse. Cioè, con le stesse. No, con le altre. Vedi, con noi che non ho suonato in due, dobbiamo suonare. Oscillare. Possiamo fare un tentativo. Facciamo un tentativo. Come lo dici tu? Facciamo. Sono curioso di vedere questo il risultato. Quindi, fondamentalmente, come ci possiamo organizzare? Sì, qua io questa partitura l'ho fatta in questa maniera qua. Ovviamente devo una lettura comunque temporale classica, standard, quindi a sinistra verso destra. Lo immaginate così. Ovviamente un gesto importante poteva essere un cluster, anche quasi il pianoforte, e poi ho un cluster di qualcos'altro. È comunque che si sviluppa in un tema che poi dopo l'ha sviluppato benissimo l'idea che avevo Adriano nella prima parte di qualcosa che comunque la linea guida a tutto il resto. Bozzi, per esempio, ha interpretato bene il mio discorso di partitura con degli elementi che poi dopo si sono fusi con la struttura che ha creato Adriano e Fabrizio che un po' interveniva, si fondeva però, anzi si ritagliava il suo gesto bello, forte, tridimensionale, che poi ha portato a... Forse però adesso potrebbe essere c'è anche interessante dividere invece per colori, cioè fare... Proviamo. Non so, io e Fabrizio il verde... E infatti io l'idea era anche un po' quella, l'idea inizialmente era anche quella, cioè comunque identificare per ogni colore un determinato gruppo di strumenti o eventualmente nel caso di un trio un singolo strumento. Quindi magari per organizzarci possiamo fare così, che ci organizziamo per colori. Adesso il trio diventa un colore, tranne due persone che dovranno prendere un colore. Oppure possiamo anche addirittura decidere che quattro seguono un colore, due un altro, altri due un altro. Cioè possiamo decidere... Sì, due, tre, due. No. Noi siamo in otto, sì. 3-3-2 sì, 3-3-2 o anche 1-1-6 o 2-2-4-4-2 come 4-3-1-2 bisogna aggiungere almeno altri due al gruppo, se no non riusciamo. Allora, io manterrei quasi manterrei quasi la struttura. No, rispetto al primo trio che hanno fatto, cercherei quasi di ripetere un po' la cosa che ho pensato fosse la loro interpretazione. Quindi direi che magari il verde potrebbe essere il gruppo che fa parte, che fa capo Adriano, diciamo così, il giallo a Bozzi e il blu a Fabrizio. Quindi spetta più o meno a noi altri decidere più o meno che tipo di... forse è una soluzione buona. Sì. Si potrebbe fare anche, visto che, cioè, che tu un pochino conduci. Ah, vabbè, ma io definisco i ruoli. Condurre non lo so se... No, magari può essere anche una conduzione molto blanda, di... come dire, di... Ok, il suggerimento. Sì, magari intanto sarai tu quello che giri pagina, quindi quando decidi tu di gestire la partitura, quindi potresti anche... Magari posso anche indicare alcune cose. Per esempio? Fare una... Sicuramente cercherò di seguire un discorso temporale, quindi io comunque leggo da sinistra verso destra, in ogni caso. Questo è... Ok, possiamo fare così. Quindi magari... posso anche definire il gruppo degli strumenti, così quindi sì, sempre gli stessi. colori sì, sì, sì, sì, lasciamo le stesse, anche le stesse combinazioni. Sì, sì, sì, sì, sempre gli stessi colori. Ci quindi facciamo verde, quindi Adriano, Bozzi giallo, Fabrizio blu, Giacomo, è indeciso se è verde o blu, decidi tu. Blu. Blu, che okay, Giacomo blu. È giallo con me? Giallo... Quindi Giacomo è con me. Se... Giallo secondo me... Nicolo. Alessandra. Alessandra. Alessandra. Giallo? Alessandra giallo. Sì. E tu giallo? Sì, Alessandra giallo, quindi manca... Blu. Silvia. Ah, Silvia pure. Giallo e Travis blu. Blu. Ok. Quindi. Ma verde sul solo. Sì. No. Manca Bozzi. No, Bozzi è no, giallo. Giallo. No, no, Alessandra io giallo, poi hai messo anche Silvia giallo. Ok, allora facciamo magari. Allora Alessandra verde, mi sa per essere un po'. Equilibrato. Quindi due verdi, gialli, tre blu. E tre blu. Con me. E quindi siamo i blu. Quindi sì. noi tre. Noi tre. Quindi dovremmo seguire la nostra direzione. Sì. Quindi anche gli attacchi? Beh no, attaccano i verdi. Beh sì, sì no, più o no, meno. No, però più o meno sì, ecco, appena cerchiamo di iniziare insieme. Sì, la squadra dei verdi, no, però per dire l'attacco ce lo può dare Danilo tutti insieme, cioè no, che dividiamo i colori. Beh, però se vogliamo seguire anche in senso temporale, forse possiamo davvero seguire anche gli ingressi di ciascuno. No, non so. Va bene, sì, sì. Allora dall'attacco ai colori. C'è un giallo intruso lì, capito? Devo ricordare i colori però. Giallo. Allora, verde. Verde siamo io e Adriano. Aspetta. Ah, poi noi tre stiamo lì. Sto pensando se magari in corso d'opera vi chiedo di cambiare colore, può essere un'altra variante interessante. Io sono una carta giusta, cioè. Se tu mi dici blu è fai blu e giallo è giusto, il blu è giusto, questa è la zona blu. Giacomo forse non è blu veramente, Giacomo magari potrebbe essere cambiare da colore, da un colore all'altro. Ma Giacomo è free l'arcobaleno.